vedete tutte le canzoni. Virtuosismo, ispirazione, improvvisi e variazioni. Hop, hop, drop da cavallino, Black and Johnny. È una fisarmonica moderna dove si nasconde tanto swing. A richiesta ne uscirà notte allegre che faranno canticchiare a più non posso guardare. Kramer, fate voce dire, fate vedere che vuoi dire. Dalla fisarmonica di Kramer escono i motivi del tuo cuore. Nasce allora il buon umore e felice sarai tu fischiettando serenata Marilu. Dalla fisarmonica di Kramer escono i motivi del tuo cuore. Lascia loro il buon umore e felice sarai tu fischiettando serenata Marilu.